La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua come tutti i sabati a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui da Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema. Posso dire forse il più vecchio e originale settimanale di cinema italiano, non lo so, perché insomma è dal 99 che siamo qua, per cui un po' di strada l'abbiamo fatta. No, mi veniva in mente adesso, non so perché. Comunque è una settimana molto densa, 15 film più o meno, comprese le uscite, quelle a campione, due giorni sì, un giorno no, poi di mercoledì mattina lo smontiamo, ma il pomeriggio lo rimontiamo. Beh, questo ormai è diventata anche una modalità di distribuzione. Faremo le nostre scelte, come sempre, ve ne racconteremo soprattutto 5, vi manderemo anche al cinema, quindi state già sintonizzati con grande attenzione, perché, anzi, vi dico già anche il nostro numero di SMS, 349-238-6666. Fra un po' affronteremo un film che si intitola The Idol e, rispondendo a una nostra semplice domanda, avrete la possibilità di andarlo a vedere gratis, in compagnia, con un'altra persona del cuore, un amico, un amante, quello che volete, in 9 città italiane. Quindi state lì, perché si gioca con quello, si gioca col nostro DVD game, come al solito, per vincere i film più belli della stagione in un video. Insomma, non vi lasciamo mai senza premi. Cominciamo però, visto che quest'anno è l'anno delle Olimpiadi e fra poco a Rio tutto si illuminerà con i 5 cerchi, col parlare di una leggenda dello sport di tutti i tempi, Jesse Owens. Jesse, tu sei il migliore. Vuoi vincere la medaglia d'oro? Certo. Vuoi vincerla a Berlino? Tu hai la possibilità di entrare nella storia e vorresti mollare. Si aspettano un gesto da me, un esempio. Io me ne sbatto dei principi! Sì, ma tu sei bianco, Larry! La gente conta su di te. Che cosa vogliono? Che tu vada a Berlino e batta quei nazisti. In pista non esiste bianco o nero, ma solo veloce o lento. In quei 10 secondi sei completamente libero. Chiamo in causa Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Avercene ancora atleti come Jesse Owens nelle prossime Olimpiadi, chissà che non venga fuori qualcuno, ma penso che in questa nostra generazione di atleti super sponsorizzati, super tecnici, preparati come dei computer, la storia, l'umanità che usciva fuori da quell'atleta lì difficilmente si rivedrà. Detto questo, esce fuori anche dal film? Esce fuori dal film, sì, lo dico senza eccessivo entusiasmo, nel senso che un po' forse è difficile, come dicevi tu, sentire Jesse Owens dentro in un periodo in cui probabilmente tecnicamente abbiamo atleti dello stesso calibro, penso a Michael Johnson, Usain Bolt, ma che a differenza degli Owens o anche del nostro Mennea non avevano quella carica umana, empatica, nervosa e una storia personale che era davvero cinematografica. In questo caso, quando però ti ritrovi davanti a qualcuno che ha una vita che sembra scritta su una sceneggiatura, da una sceneggiatura, poi è difficile raccontarla perché non sai se lavorare per sottrazione, non sai se invece seguire quell'epica naturale oppure costruirne una nuova. Race si accontenta di seguirlo da una distanza media, senza avvicinarsi troppo, senza cercare l'uomo Owens in maniera ossessiva e senza nemmeno però accontentarsi dell'atleta. Questo è un pregio e un difetto del film, un pregio perché riusciamo ad avere un binario parallelo tra l'Owens, eroe di Berlino, e allo stesso tempo l'Owens che però non viene non solo di fatto ringraziato per aver forse iniziato a vincere la guerra da solo, perché senza di lui forse non ci sarebbe stata una coscienza collettiva occidentale che si sarebbe poi ribellata all'orrore del nazismo e all'orrore della seconda guerra mondiale. Un Owens che serve il suo paese, ma il suo paese non serve lui, e che quindi vince a Berlino ma viene sconfitto durante tutto il resto della vita, perché quando la gara non ha regole o le regole sono scritte da quelli che sono contro di lui, lui non ha speranze. Poteva battere Hitler ma non poteva battere il sistema. Questo viene raccontato in maniera troppo, secondo me, quadrata, senza cercare di arrivare alla carne viva della storia, ma viene raccontata, e lo dico con grande stima sia per il programma sia per lo stile, come una puntata di sfide sostanzialmente, e io considero sfide uno dei programmi televisivi meglio scritti, ma ovviamente, e non si offenderà nessuno, non è cinema. Il film però si fa vedere perché appunto la storia è importante di per sé. Io vi do un consiglio però, visto che anche nel doppiaggio, ancora più bello su questa storia, c'è uno spettacolo teatrale interpretato da Federico Buffa. Federico Buffa è appunto nel doppiaggio italiano e forse vedendoli insieme capirete veramente chi era Jesse Owens, no? Cantavano gli stadio, chiedi a tua mamma chi erano i Beatles, poi chiedete ai vostri nonni chi era Jesse Owens, o in alternativa a Federico Buffa. Esatto, e ricordiamo, regia di Stephen Hopkins, come dicevi, che non è proprio un regista che le ha azzeccate tutte, ecco, tra l'altro secondo me è quello che manca un pochino in questo film, è anche una mano che dia una forza diversa. Diamo un'occhiata alla classifica del box office, perché vabbè, la settimana scorsa l'avevamo ampiamente preventivato, è stata quella in cui è schizzato in testa Batman vs Superman, l'avevamo anche detto da queste frequenze, è uno di quei film in cui la critica non serve a niente, nel senso che intanto la gente lo va a vedere lo stesso, tra l'altro sta andando ancora meglio, è già all'ottavo posto negli incassi dell'anno solare 2016, dove Perfetti Sconosciuti, secondo incasso di quest'anno, è arrivato a 16 milioni di euro, davvero anche lì una sorta di miracolo italiano. Allora, viabilità adesso, fra poco torniamo insieme, parliamo di un thriller adrenalinico assolutamente esaltante come Desconocido, e poi si vincono i biglietti per andare a vedere The Idol. Sono dappertutto, arrivisti, truffatori, ladri, corrotti, l'Italia sembra perduta, eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta, si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30 su Radio 24. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea prosegue con un thriller spagnolo, si intitola Desconocido, ascoltiamo la clip. Dovete recuperarli, Carlos, prima che la situazione ci travolga. Diciamo qualcosa ai clienti? No, non gli restituiamo l'investimento, se no la cosa salta fuori. Sì? Carlos, siete seduti su una bomba che esploderà se uno solo di voi si alza. Figlio di puttana, hai ferito mio figlio! Trova i soldi, Carlos! Trova i miei cazzo di soldi! Perché ti chiama quell'uomo? Che gli hai fatto? Non ho fatto niente, Sara! Cosa si prova quando qualcuno ti porta via tutto, Carlos? Ora capisci come mi sento? Boris, allora parliamo di questo Desconocido, che tra l'altro ha fatto incetta di premi tecnici agli ultimi Goya, miglior sonoro, miglior montaggio, è un film che si basa molto sull'adrenalina dovuta alla fuga, al suono, al coinvolgimento dello spettatore. È proprio un film di genere all'americana, qualcuno dice sembra già pronto per un remake, ma del resto ormai è così che anche nascono molto spesso i film europei. Però dimostra ancora una volta, con la regia di Dani della Torre, che in Spagna il genere lo sanno praticare molto bene. Ed è una cosa che sta cominciando fortunatamente a ricapitare anche all'Italia, magari con una vena anche un po' più autorale da parte nostra. Quindi tutto sommato c'è da star felici. La storia, Carlos, che avete sentito nel trailer, è un dirigente di banca, esce di casa in un giorno che sembra un giorno normale, che conferma una famiglia pressoché perfetta, porta a scuola i figli, si mette sul suo SUV bello lucido e da quel momento in poi riceve la telefonata che in pochi secondi sgretolerà la sua vita, una telefonata che gli dice di non scendere mai da quella macchina perché altrimenti quella macchina esplode. Chiaramente il film è tutto lì, è tutto sul perché, sul chi sta facendo quella telefonata, su quali sono i motivi che possono far venire fuori segreti e bugie di una vita fin lì, almeno apparentemente, irreprensibile, e chiaramente la storia tiene col fiato sospeso lo spettatore. Boris, una trama, se vogliamo, già vista, perché da Speed a, che ne so, Locke, sono tanti film che ci hanno raccontato l'impossibilità di frenare, di rallentare, di scendere, di fare qualcosa e dover stare sempre con l'acceleratore pigiato. Qui c'è una variante, quella di non poter uscire da una macchina che diventa una sorta di abitacolo, nel quale, una sorta di confessionale del Grande Fratello, nel quale fare la resa dei conti della propria vita. A me fa un po' sorridere questo genere acrobatico che va a rimbalzo con Hollywood. Era successo col fan footage, che parte in America, viene ripreso in Europa e con film appunto europei sul fan footage, penso a Rec, ritorna in America con dei remake. Ora questi film sul appunto sull'unico ambiente claustrofobico che diventa una possibile tomba e che non può fermarsi, altrimenti appunto diventa tale, sta succedendo la stessa cosa, perché posso metterci sopra una scommessa sicura sul fatto che The Sconosciuto diventerà un remake probabilmente migliore dell'originale. Non voglio essere particolarmente critico, però come dici tu, che cosa fa The Sconosciuto? Prende Speed, di fatto, gli mette un pizzico di Crank, per chi se lo ricorda era il film in cui Jason Statham non poteva fermarsi, lui proprio personalmente non poteva abbassare l'adrenalina, altrimenti sarebbe morto per un veleno che gli avevano iniettato, e poi nella scrittura e nella costruzione e la struttura del personaggio è assolutamente Locke, cioè in un tot ore all'interno di una macchina quest'uomo dovrà forza confessarci per uscire fuori da questo incubo. Quindi davvero niente di nuovo, il problema è proprio questo, nulla di nuovo, neanche l'estetica, perché l'estetica è una saturazione di suoni e colori che già negli anni 80 si era vista, negli anni 90 era già diventata vecchia e che adesso sembra davvero superata, sembra un esercizio vintage. Quali sono le cose positive? Il tecnico, cioè il montaggio del sonoro, il montaggio in se stesso, gli attori, le due coprotagoniste femminili e quel Luis Tosar che qualcuno si ricorderà nel bellissimo Cella 211, passato per le giornate degli autori e poi è andato anche in sala, che ha un viso che da solo può tenere il film. Ma il problema è una scrittura troppo elementare, troppo facile, in cui lo spettatore viene chiuso in questo abitacolo e in questa struttura di storia che può che essere scontata, perché chiaramente il soggetto sta tutto nel fatto che se ti fermi muori, se continui a camminare non muori, e quindi non è particolarmente complesso, e il regista e lo sceneggiatore non si prendono la briga di farci sapere più di tanto qual è il reale rapporto che c'è tra il buono e il cattivo, che forse non sono il buono e il cattivo, ma ci vuole solo instillare il dubbio che uno non sia tanto buono e l'altro non sia tanto cattivo, ma senza farci capire cosa può aver portato l'uno e l'altro ad essere legati da un rapporto così perverso. Lo stesso vale appunto per le protagoniste femminili, lei artificiera, Marta, che è un personaggio di cui non voglio dire molto per non togliervi quei pochi colpi di scena che sono interessanti nel soggetto ma che poi non vengono sviluppati. Ecco, sono quei film che hanno una grande idea e per questo diventeranno gli ottimi remake, ma che poi nello sviluppo si poggiano troppo su quell'idea e a un certo punto si addormentano su quell'idea. Il ritmo è buono, se vi piace il genere potete andarlo a vedere con una certa sicurezza e senza aver paura di annoiarvi troppo, però certo non rimarrà un'opera indimenticabile nella storia del cinema europeo. E allora, questo è Desconosciuto, il film di Dani Della Torre. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, qualche secondo, per giocare insieme con il nostro tradizionale DVD game. Indovinate che film è questo. Lo dobbiamo sapere. Non faccia il Boy Scout con me. Non c'è il manuale delle regole qui. Lo dobbiamo sapere. Chi deve sapere che cosa? Chi ha bisogno di sapere che cosa? Dove non c'è un manuale delle regole? Se avete visto o avete indovinato questo film, scriveteci la risposta alla rosapurpurea@radio24.it con il nostro nome, cognome e indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Gioco per gioco, regali per regali, parliamo di The Idol. E allora, ci trasferiamo in tutt'altra zona del mondo, siamo a Gaza, con una storia che prende le mosse all'inizio degli anni 2000, quella di un gruppo di bambini, di scugnizzi li definirei, che volano sulle macerie, anche con i loro sogni, di una città distrutta dalla guerra, e i loro sogni finiscono immancabilmente con la musica. Vuoi mettere su un gruppo? Con degli strumenti veri? Ma sei pazza! Fidati di me, riusciremo ad andarcene. Te lo prometto. Insieme conquisteremo il mondo. Mi chiamo Muhammad Asaf. Come hai fatto ad arrivare fino a qui? Sei qui per la tua storia, non per il talento. La tua voce porta speranza a chi non ne ha. Devi vincere tu. È la tua occasione. Mohamed Asaf è il protagonista, sia bambino sia adulto, di questa storia. A un certo punto la sua vita incrocia il dramma, incrocia la perdita di un'amica d'infanzia. Lo ritroveremo adulto con la stessa voglia di cantare, di suonare, con la stessa voglia di provare a uscire da quei confini di Gaza che gli stanno troppo stretti, e che stanno troppo stretti evidentemente in maniera metaforica tutta una generazione, per provare a fare la strada, forse più occidentale che c'è in quello, vincere un talent, Arab Idol, e diventare davvero non solo il cantante che sente di essere dentro, ma un simbolo per una nazione. Questo è The Idol, questo è il film che vi faremo andare a vedere fra poco, rispondendo a una semplice domanda al nostro numero di SMS 349-238-6666. Prima però un minuto con Boris Sollazzo per cercare di inquadrare, Boris, questo film che uscirà, lo ricordo, intanto la prossima settimana. Noi vi mandiamo all'anteprima del 4 aprile, lo vedrete prima di tutti, ma il film poi nelle sale per tutti sarà distribuito la settimana del 14 aprile precisamente. Boris, dicevo, The Idol, un film con una regia molto semplice, lo ricordo, firmata da Hania Bouassad, che aveva già vinto un Golden Globe per il film straniero in passato, uno che, come dire, ha saputo mettere in una chiave anche estetica molto occidentale tematiche molto medio orientali. Sì, assolutamente. Un altro film con una ottima idea in testa. Racconta Hania Bouassad che, dopo aver vinto un premio a Cannes con Omar, tre settimane dopo segue la vera vicenda del protagonista di The Idol, cioè questo ragazzo palestinese che vince un talent ed esulta molto di più di quanto aveva fatto quando aveva vinto il premio a Cannes, perché era una vittoria simbolica, era la vittoria di un giovane artista palestinese che era riuscito a superare tutti i problemi personali e anche logistici di chi era costretto a vivere in Palestina e doveva andare in Egitto a partecipare al talent, e aveva battuto tutti contro ogni aspettativa, riscattando un intero popolo. L'idea è ottima, chiaramente l'empatia e la forza trascinante della storia aiutano, così come il viso del protagonista. Hania Bouassad, come dici tu, fa una regia molto semplice, capisce di dover essere più che altro tutelare rispetto a questa storia, e di fatto gira un The Millionaire alla palestinese che risulta cinematograficamente molto più interessante nella costruzione di questo successo, cioè nella difficoltà esattamente logistica di andare a dover partecipare a questo talent, non tanto poi nel climax che porterà al trionfo. Forse non siamo ai livelli di Paradise Now, dove si entrava nel cervello e nel cuore dei kamikaze come pochi altri avevano fatto, dando più o meno la colpa a tutti, cioè sia ai mandanti degli attentati sia a chi con il loro comportamento avevano portato delle persone a disperarsi, e non c'è nemmeno l'intimismo di Omar. Però è un film proprio come The Millionaire che riscalda il cuore di quelli che si possono andare a vedere con la fidanzata o col fidanzato o con la famiglia, e si esce un po' più leggeri, forse troppo consolatorio rispetto alla reale vicenda storica, però abbiamo bisogno anche di belle storie, abbiamo anche bisogno di vedere che non tutto finisce magari con una bomba che esplode, ma con un talento che esplode. Assolutamente, tra l'altro abbiamo anche bisogno di vedere con mano, con le immagini di repertorio mostrate dal film, che a volte un semplice ragazzo che vince un concorso di canzoni può essere quasi un simbolo di voglia di normalità di un popolo, di normalità, che è quello che forse la maggior parte di quella gente vuole, a cui aspira. E allora, per andare a vedere The Idol, siete pronti? Il nostro SMS è 349-238-6666. 4 aprile, lunedì 4 aprile, in 9 località si terranno delle anteprime di The Idol. Ve le dico: Milano, Torino, Bologna, Parma, Roma, Napoli, Palermo, Padova, Genova, praticamente tutta Italia. E allora, se siete interessati a partecipare a una di queste anteprime, noi vi offriamo 10 posti, 5 biglietti per due persone, per ognuna di queste anteprime, a chi per primo indovinerà la domanda che stiamo per fare al 349-238-6666. Dovete scrivere la risposta alla mia domanda, il vostro nome e cognome e quale città, in quale città volete partecipare all'anteprima. E allora, la domanda è: come si chiama il film del 2005 del regista di The Idol, Hani Abu Assad, che vinse il Golden Globe come miglior film straniero? Da questo momento 349-238-6666, le anteprime sono il 4 aprile a Milano, Torino, Bologna, Parma, Roma, Napoli, Palermo, Padova e Genova. Diteci come si chiama il film del 2005 del regista di The Idol, Hani Abu Assad, che vinse il Golden Globe come miglior film straniero. Vostro nome e cognome, risposta presumibilmente esatta, e quale città vuole vedervi protagonisti di questa anteprima. Sarete poi ricontattati lunedì dalla nostra segreteria per sapere se avete vinto e se potete andare al cinema a vedere The Idol. A questo punto, linea alla regia, fra poco ci aspettano i due grandi del cinema di tutti i tempi, Hitchcock e Truffaut. La rosa purpurea. Eccoci qua, terza parte della rosa purpurea. Dicevo, occupiamoci di due grandi del cinema di tutti i tempi, come Hitchcock e Truffaut, perché come forse alcuni di voi sapranno, i due sono legati da una storia bellissima che ha dato vita a quello che forse è il libro più importante che un cinefilo deve leggere, cioè Il cinema secondo Hitchcock di François Truffaut. Tutto nasce con una intervista di Truffaut, giornalista dei Cahiers du Cinéma, che va al cospetto di quello che ritiene essere un grande autore, quando ancora il mondo non lo considerava un grande autore, ma un uomo di spettacolo che faceva film di cassetta con facili emozioni. Ebbene, da questa intervista viene fuori quel libro, da quel libro viene fuori questo film adesso, appunto Hitchcock Truffaut, il film, che sarà nelle sale nei prossimi giorni, con una distribuzione di quelle appunto a macchia di leopardo, chiamiamola così, ma prima sentiamo la clip. You're running now. Okay, fine. Nel 1966, François Truffaut pubblicò uno dei pochi libri davvero indispensabili sul cinema, una serie di conversazioni con Alfred Hitchcock a proposito della sua carriera. Seven days. Ça durait 7 jours. 70 setups. And I shot some of it in slow motion. Cosa fa il film Hitchcock Truffaut, che sarà nelle sale il 4, 5 e 6 aprile? Ve lo ricordo, quindi settimana prossima, 4, 5, 6 aprile, Hitchcock Truffaut al cinema, da non perdere. Cosa fa, dicevo, il film? Mette intanto in scena gli audio di quella intervista, perché gli audio di quell'intervista ci sono, tra l'altro mi pare che ultimamente siano stati anche resi disponibili sul web. Sentire le voci di Truffaut che intervista Hitchcock, di Hitchcock che risponde a Truffaut, vi assicuro è una grande emozione, ma soprattutto fa raccontare l'importanza seminale di quel libro, di quel lavoro e del cinema di Hitchcock soprattutto a tanti altri registi contemporanei, da cui capiamo quanto fondamentale sia stato il lavoro di quei due cineasti, ma quanto fondamentale sia stato nella crescita quel libro, che come dicevo è edito in Italia da Saggiatore, si può assolutamente ancora leggere in due edizioni, tra l'altro una quella normale fra virgolette, l'altra quella illustrata con le foto scattate sul set di quelle interviste. Boris, quando eravamo tutti noi, direi probabilmente giovani critici alle prime armi, i nostri maestri ci dicevano: se c'è un libro che devi leggere per primo è Hitchcock Truffaut. È il regalo che ci è stato fatto da tutti i nostri maestri, hai ragione, e non potevamo prescindere da quel testo. Per tanti motivi, non solo per quello che c'è scritto, ma anche perché lì si confrontano due maestri che forse ancora non sapevano di esserlo, uno perché non gliel'avevano riconosciuto e l'altro perché lo sarebbe diventato con gli anni. E questo film è un film d'amore per il cinema, è un film che ci ricorda quanto quel libro sia stato seminale, come dicevi tu, per gli autori cinematografici e per la critica cinematografica, perché la Nouvelle Vague ha fatto tanto per il cinema quanto ha fatto per la critica cinematografica, per l'analisi della macchina cinema e della creatività cinematografica che ha portato avanti ancor prima di farlo il cinema. Ken Jeong ha l'intelligenza di non invadere il campo di questi due grandi, ma di accompagnarlo, di essere lui stesso spettatore di questa grandezza. L'uso delle musiche, così come gli audio, così come le testimonianze, perché qui troverete Scorsese, Wes Anderson, David Fincher, Richard Linklater, Olivier Assayas, tutti scelti con grande cura, perché ognuno di loro ha il seme di questi due grandi geni all'interno del proprio cinema, non lo disconosce, anzi fa capire quanto siano stati fondamentali entrambi per la loro crescita autoriale. E poi rende giustizia a questo volume che viene analizzato, ne viene fatta un'esegesi che è per inizialmente emotiva e poi artistica e anche analitica su che cosa è stato, che cosa sono state quelle pagine, che hanno anche il merito di essere leggibili per chiunque. Non è il classico testo di cinema per addetti ai lavori, è un'introduzione alla settima arte per tutti, ed è quella forse la chiave straordinaria del film, perché Truffaut, come Hitchcock, non facevano film per se stessi, ma lo facevano sostanzialmente per il pubblico, ma non per assecondare il pubblico, per anticiparlo, per spiazzarlo, per emozionarlo. Questo film riesce a fare tutte queste cose e quindi vince, riesce a cogliere lo spirito fondamentale di quel libro, riesce a farlo consegnandoci testimonianze di quell'intervista e di quello che ha significato per tanti grandi autori e di fatto di quello che ha significato per noi. È un film che potrebbe apparire solo per gli addetti ai lavori, e gli addetti ai lavori troveranno una festa, un Luna Park, ma che io consiglio a tutti gli spettatori che amano il cinema. Assolutamente consigliato, perché non è un film, tra virgolette, difficile, è un film assolutamente godibile, con i grandi del cinema, come hai detto tu, Scorsese, Wes Anderson, David Fincher, che raccontano quanto per loro sia stato importante il rapporto fra questi due monumenti del cinema mondiale, e che sentiamo parlare, sentiamo ridere, sentiamo scherzare, sentiamo vivere, e questa è la cosa più importante. Hitchcock Truffaut al cinema 4, 5, 6 aprile in libreria con il Saggiatore. È il momento di giocare di nuovo con il nostro DVD Game, seconda traccia del film misterioso di oggi. Io credo che i nostri più fondati motivi per un ricorso siano costituzionali. C'è una valida possibilità che la Corte Suprema consenta a riesaminare il caso. Si parla di un ricorso, di qualcosa da riesaminare, prima si parlava di cose da dire o da non dire, insomma c'è un po' di mistero, ci sono segreti. E allora, qual è il film che vi abbiamo fatto ascoltare? Io vi aiuto, è un film importante di questa stagione. La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Provate a indovinarlo e a vincere le due copie in Blu-ray del film che vi sveleremo la prossima settimana. Parliamo anche di cinema italiano in questa puntata così ricca della Rosa Purpurea. Fra poco ascolteremo anche le interviste realizzate proprio dal nostro Boris Sollazzo a Roma con il regista e il cast del film Ustica. Ancora una volta una delle pagine più incredibili, più controverse della nostra storia recente finisce in pellicola, quella dell'abbattimento del DC-9 dell'Italia del 27 giugno 1980. Vedi quella sagoma scura laggiù? Quella è Ustica. Il DC-9. 81 vittime. Un aereo civile che precipita in mezzo al mare e nello stesso giorno un caccia libico viene abbattuto sui monti della Sira. Questa è la prova che c'è stata una collisione in volo. Per deve andare, ha capito o no? Rischiamo di farci tutti molto male. Sai bene che la storia di questo paese è segnata dalle stragi. Non si fermeranno mai, non possono. E allora, Renzo Martinelli torna a un cinema che racconta il nostro passato, i grandi momenti critici e, come dire, e un po' controversi irrisolti del nostro passato. L'aveva fatto per esempio con Porzus, con Vaillant. Abbandona fortunatamente anche un po' le ultime derive, diciamo così, su guerre sante, crociate, robe del genere, che non gli erano venute particolarmente bene, mentre qui ritrova un rigore anche grazie all'utilizzo dei documenti dell'inchiesta. Si è studiato migliaia di pagine insieme anche al giudice Rosario Priore per mettere a punto questa storia. Boris, brevemente ti chiedo soprattutto, noi abbiamo in mente Il muro di gomma, ovviamente, quando parliamo di cinema su Ustica. Lì era un film quasi a tesi, cioè andava veramente a raccontare una cosa. Ecco, c'è qualcosa anche nella tesi, anche nella verità che si cerca di tirar fuori. Cosa c'è di diverso in questo Ustica? C'è di diverso appunto tutto questo studio che ricorda il miglior Martinelli, soprattutto quello di Vaillant, non la ricerca come nel Mercante di Pietre, che aveva pure il merito di anticipare un certo modo di fare terrorismo da parte del fanatismo arabo, cercando appunto di anticipare quello che sarebbe potuto succedere, che è successo, ma lo studio preciso e rigoroso di qualcosa che è pubblico, cioè la sentenza di Rosario Priore su Ustica. Quello che racconta spesso Martinelli è che nei primi 5 giorni escono delle verità che poi verranno celate. Se si pensa al motivo per cui in Italia il complottismo ha tanto successo, e magari può diventare anche ridicolo, grottesco in alcuni momenti, bisogna sempre ricordare che in questo paese ci sono state le stragi di Stato, in questo paese c'è stata la bomba alla stazione di Bologna e appunto Ustica, verità mai scoperte. Lui le mette tutte in fila in un film che forse ha il difetto di essere un po' troppo televisivo nell'estetica, ma che, pur romanzando con un bravo Marco Leonardi, anima nera del potere in questo caso, non a caso cito il capolavoro di Francesco Munzi, perché c'è un po' di quello in questo eroe alla fine positivo, con una catena Murino che fa una giornalista alla ricerca della verità, in cui da una parte troviamo il muro di gomma, perché tutti sbattono contro questo muro di gomma, e dall'altra però troviamo tutte quelle verità che non possono essere celate, tracciati radar, testimonianze, e il Martinelli, tra virgolette, complottista, rimane nel romanzamento della storia, ma soprattutto in alcune frasi che sono state dette, che vengono messe tutte insieme a cercare di spiegare perché non siamo arrivati alla verità. Ecco, Ustica forse non è un film sulla verità su Ustica, anche se quando avete finito di vederlo, e questo è un grande merito, ne saprete di più. È un film forse sul perché questa verità è stata celata, su quella ragion di Stato che ha spesso reso questo Stato irragionevole, e questo è un grande merito. Mi ricorda il primo Martinelli, che è quello che io ho amato di più. Siamo ai livelli di Vaillant, forse, ecco, a livello estetico, e questo è l'unico difetto, siamo a un passo più basso, ma è anche vero che stavamo di fronte a una storia che forse meritava più di essere parlata che di essere vista. Allora Boris, facciamo così, io ti ringrazio e ti saluto. Noi adesso andiamo a sentire la viabilità, poi sentiremo le interviste con Martinelli soprattutto, e anche con Caterina Murino. Grazie Boris, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora viabilità, fra poco restate qui, Renzo Martinelli proprio al microfono di Boris Sollazzo. Pantera col TH, l'IRP di Infracomitalia, anche in cloud. Vi presenta La Rosa Purpurea. Ancora qui La Rosa Purpurea, vi abbiamo lasciato con una promessa: ascoltare l'intervista di Boris Sollazzo a Renzo Martinelli, regista di Ustica, e allora sentiamola insieme. Renzo Martinelli, Ustica, dopo 35 anni ancora una ferita aperta nel tessuto sociale di questo paese. Tu hai deciso di riprendere un qualcosa che forse era dormiente, anche se non risolto, e l'hai risvegliato pesantemente. Io trovo che il dovere di un intellettuale oggi, in questi tempi così complicati, sia proprio questo: ricercare appassionatamente una verità evocarla e comunicarla. Questo è il mio mestiere. Lo faccio usando lo strumento che conosco bene, che è il cinema. Fossi uno scrittore, scriverei un libro. Quindi uso il cinema, che ha un potentissimo valore maieutico, per evocare una verità e comunicarla. Questa è la mia professione. Quindi cerco delle storie nelle quali c'è una verità pesantemente manipolata o rimossa e cerco di riproporla attraverso lo schermo. Ecco, quello che colpisce è che c'è tantissima documentazione, tutto quello che si vede è frutto di un'indagine molto seria, e allo stesso tempo però c'è anche molto cinema, c'è anche un romanzamento forte di una storia. Come, di fronte a un argomento così pesante, come si uniscono le due cose? Ma guarda, questo film mi è costato 3 anni di vita, perché io ho avuto la fortuna 4 anni fa di essere avvicinato dal giudice Rosario Priore, che mi diede un dischetto e mi disse: guarda, vedi un po' cosa c'è qua dentro. Ed erano le 5.000 pagine di un lavoro monumentale, frutto di milioni di pagine di istruttoria. Nelle 5.000 pagine del giudice Priore c'è già tutto. Io ho semplicemente collegato i fili, gli ho dato un ordine, gli ho dato un aspetto omogeneo, ho reso verosimile una dinamica, ma lì dentro c'è già tutto. Quello che vedete nel film è già nelle 5.000 pagine di Priore. A pagina 118 delle 5.000 pagine c'è scritto: vengono ritrovati in mare, nello stesso momento, nello stesso luogo del disastro, pezzi di sicuro provenienti da un'auto di un caccia militare americano, che fanno supporre una collisione tra detto caccia e il DC-9 nello stesso momento, nello stesso luogo del disastro. Che cos'è questa cosa se non la tesi del film? Io devo chiedertelo, hai avuto paura in questi 3 anni? Non ho paura, perché non sono così sciocchi. Se toccassero me, il film incasserebbe 20 milioni di euro. Non sono così cretini. Cioè, l'ultima cosa a fare è venire a toccare me, fanno incassare 20 milioni al film, non lo faranno mai. Non si capisce quale cosa ci possa essere di peggio di questi 35 anni di menzogna. Questa verità sarebbe stata veramente così pesante in quegli anni? Ti ricordo che siamo nel 1980, in piena guerra fredda. Un grande impero, gli Stati Uniti, e un grande impero, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Guerra fredda. L'America è sull'orlo di un conflitto armato con Gheddafi, tant'è che 2 anni dopo va a bombardargli la casa. Ecco, in questo contesto si inserisce Ustica. Per dirla con Andreotti, noi avevamo una sposa americana e un'amante libica. Eravamo nel NATO, gli americani comandano, noi obbediamo, questa è la moglie. Sotto sotto trescavamo con Gheddafi, questa è l'amante. Perché? Perché Gheddafi ha comprato il 10% delle azioni Fiat, ci dà il gas, ci dà il petrolio. Quindi avevamo molti motivi per fare un favore al colonnello. Ustica sono due verità inconfessabili. Noi abbiamo dovuto ammettere agli americani che con la nostra compiacenza facciamo passare i MIG libici su un territorio NATO. Figura barbina. Ti ricordo che siamo il paese che non ha mai finito una guerra con gli alleati con cui l'ha iniziata. Quindi siamo abbastanza abituati noi italiani a questi comportamenti. E l'altra verità inconfessabile è che un cowboy inseguendo un libico butta giù 81 persone. Ma nell'80, ragazzi, nell'80, ma chi l'avrebbe mai detto sta roba? Ecco perché si mette in moto la ragione di Stato. Ma voi avete visto gli articoli che ho ingigantito? Non li ho scritti io. Nei primi 5 giorni dopo la strage la verità è acclarata, come dice Voltaire, nessuno si pone il problema se c'è luce a mezzogiorno. E c'è luce, cazzo. Nessuno si dice qual è il problema, e c'è luce. Nei 5 giorni successivi a Ustica la verità è lampante. Il TG1 e il TG2, non Telenorba, il TG1 e il TG2 mandano un servizio che io ho messo nel film, col caccia americano che tocca il 19 e dice: ormai è certo, c'è una collisione in volo, tutti i cadaveri pescati hanno il timpano destro perforato. Il TG1. Com'è che questa verità così acclarata in 35 anni diventa inconoscibile? Perché i servizi fanno il loro mestiere, che la disinformazione semina molte ipotesi, confidando in un alleato potente che è il tempo. Accadono altre stragi, un mese dopo c'è Bologna, 80 morti, e la gente dimentica. Questo è l'alleato forte che hanno, il tempo, gli anni passano, la gente dimentica. Noi già siamo un paese senza memoria. Se a questo ci aggiungete la serie di stragi ininterrotte che hanno segnato questo paese, non c'è un solo episodio stragistico su cui possiamo dire con certezza che sappiamo cosa è accaduto. La morte di Mussolini, mistero. Portella delle Ginestre, mistero. Piazza Fontana, mistero. Bologna, Caso Moro, Ustica, Italicus. Lei mi cita un solo episodio in cui può dire con certezza qual è la verità. Beh, è preoccupante, no? L'ultima domanda è sul futuro. Lei è andato a cercare sempre nel suo cinema segreti del passato. Col Mercante di Pietre, secondo me, ha previsto il futuro. Adesso che cosa l'aspetta? Io sono 20 anni che cerco di fare un film sulla morte di Mussolini. Perché? Perché i nostri ragazzi studiano a scuola una storia che borghesianamente non è accaduta. La vulgata comunista che racconta 70 anni non è vera, non è andata così. Ora, fare un film sulla morte di Mussolini, lei non trova soldi, il film si fa col denaro, non si fa con le chiacchiere. La Rai non vuol mettere una lira, Medusa non vuol mettere una lira, gli imprenditori non vogliono mettere una lira. Prima o poi lo farò, con un po' di testardaggine lo farò. Però voi capite che ci sono i film del cuore e i film della mente. Mussolini è il film del cuore. Se tra qualche anno riesco a montarlo, cercherò un altro progetto più facile. Che ci posso fare? Come sempre anche grande verve da parte di Renzo Martinelli nel raccontare, insomma, con grande passione il suo modo di vedere il cinema. Caterina Murino invece, come dicevamo, giornalista nel film di Renzo Martinelli, ci racconta come si è preparata a un ruolo così doloroso. Caterina, sei costretta ad incarnare in Ustica forse il dramma privato e il dramma pubblico più atroce che si possono immaginare, cioè una strage non spiegata e la perdita di una figlia. Come si affronta un ruolo così complesso? Affrontare non lo so, si cerca di capirlo in minima parte, perché non voglio nemmeno, ho sofferto tantissimo durante questo ruolo, lo vedi ancora, quindi non voglio nemmeno immaginare cosa possa essere in realtà. Quindi diciamo che ho cercato di affrontarlo e spero di aver dato almeno veramente un decimo, un millesimo di quello che poveri genitori o le persone che hanno vissuto in prima persona questa tragedia e le tragedie di tutti i giorni, nel momento che purtroppo siamo costellati tutti i giorni di queste tragedie, possono veramente aver vissuto. E invece il giudice Rosario Priore, prima avete sentito Lorenzo Martinelli dire nel dischetto che mi ha dato Rosario Priore c'era già tutto. Ecco, allora il giudice Priore perché ha consegnato il dischetto a Martinelli? Giudice Priore, parlando con Renzo Martinelli, ci ha detto che un giorno lei è arrivato con un dischetto in cui c'erano 5.000 pagine. Ci racconta cosa c'era appunto in quel dischetto e perché ha parlato con Renzo Martinelli? In quel dischetto c'era la mia sentenza su Ustica, era un documento pubblico. E quindi ciascuno, in primo luogo questi che si interessano di queste vicende, ha tratto una documentazione ai suoi fini. Era il sunto, praticamente, la sentenza, ordinanza di un'istruttoria che aveva preso vari più milioni di pagine. Quindi era un... Però lì c'era quasi tutto. Perché lo dà Renzo Martinelli? Perché lui si interessava di queste cose. Non mi fu richiesto da nessuno, quelli erano atti depositati in cancelleria di cui tutti potevano avere lettura. E allora, questi protagonisti di Ustica, il film di Renzo Martinelli nei cinema italiani. A questo punto è il momento di fare, come sempre, un salto nel cinema da vedere in casa, cominciando con il Risolvere, il DVD game della scorsa settimana. Quella creatura ti ha protetto. Perché? Non lo so. Torno a casa, è lontano il Monte Zanna di Lupo. E allora, si trattava del Viaggio di Arlo, il film Disney che è stato, diciamo, protagonista della fase centrale di questa stagione. Lo hanno indovinato per primi, e quindi lo vincono in edizione Blu-ray, Giovanni De Benedictis di Bari e Mauro Cossi di Maerne di Martellago, provincia di Venezia. Allora, facciamoci raccontare il Viaggio di Arlo, questa edizione Blu-ray, con tutti i suoi contenuti speciali da parte degli amici di Film TV e di Giulio San Giorgio, che è in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, che cosa sarebbe successo se l'asteroide che ha cambiato per sempre la vita della Terra non avesse colpito il nostro pianeta e se i dinosauri non si fossero mai estinti? Questa è la domanda a cui risponde un bel racconto di formazione Disney con protagonista un dinosauro di nome Arlo e un piccolo cucciolo d'uomo. Da un punto di vista tecnico, per quanto riguarda la versione DVD e Blu-ray, siamo di fronte, come spesso capita ai prodotti Disney, veramente un'eccellenza, ovviamente soprattutto per quanto riguarda il Blu-ray, e basterebbe guardare veramente gli sfondi, i paesaggi, se non ci si accontenta poi delle morbide e dinamiche linee dei personaggi, della precisione veramente maniacale dei dettagli. A deludere però, come spesso accade, è l'audio italiano, proposto in un ormai superato 5.1. Gli extra invece sono ricchissimi, ovviamente nel DVD e nel Blu-ray a 2D, perché sul 3D, sul Godot 3D ovviamente non ci sta tantissimo, e ci sono scene eliminate, approfondimenti un po' giocosi, un po' tecnici, commento audio e via elencando. Questo per quel che concerne allora il game della scorsa settimana, il film con cui abbiamo giocato. Giulio, diamo un'occhiata ai palinsesti televisivi della prossima settimana, cominciando con un musical che è diventato un classico assoluto. Lunedì 4 aprile alle 22.50 su Rai Movie c'è Hair di Milos Forman. Sì, siamo nel 1979, ovvero 10 anni dopo il fortunatissimo, celeberrimo musical teatrale, e Forman porta sullo schermo quello che a tutti gli effetti è un manifesto del ribellismo giovanile. In America definirono come il primo musical tribale d'amore rock. Il lavoro del grande autore boemo, che fu uno dei leader della nouvelle vague ceca, e poi un regista consacrato anche da un'ottima carriera hollywoodiana, pensiamo solo a Qualcuno volò sul nido del cuculo, è soprattutto un lavoro di montaggio, perché sono i tagli a creare la dinamica dei numeri musicali, non siamo di fronte a un agglomerato di balletti, insomma. È ovvio che oggi questo film sembri un po' datato, ma il fatto è che è veramente un prelievo dei sogni e poi del disincanto della fine degli anni 60 tra utopie, ideali e la guerra in Vietnam. E invece martedì 5 abbiamo parlato prima di Hitchcock, Truffaut. Ebbene, allora andiamocelo a guardare, uno dei grandi film di Alfred Hitchcock, Il caso Paradine, su Rai Movie alle 15.35. Sì, è la storia di un avvocato che si innamora della donna che sta difendendo dall'accusa di aver assassinato il marito. O almeno queste sono poi le premesse di un film giudiziario che è insieme anche una sorta di Kammerspiel sulla decadenza morale, una ronde sentimentale crudele e ambigua, girata da un regista che non solo è stato un grande inventore di forme cinematografiche, ma anche un sublime e cattivissimo moralista. Alida Valli qui al suo primo film hollywoodiano, è glaciale, spingica, bellissima, ma fu molto criticata. Ed era questo un film voluto fortemente da David O. Selznick, il famoso produttore che lo scrisse e che Hitchcock diresse pare di malavoglia. A guardarlo però non c'è un minuto che ce ne fa accorgere. E allora grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine del nostro programma. Prima di salutarvi però voglio ricordarvi di nuovo il nostro gioco che vi permette di andare a vedere in tanti, 9 località italiane: Milano, Torino, Bologna, Parma, Roma, Napoli, Palermo, Padova e Genova, lunedì 4 aprile, l'anteprima di The Idol, grazie alla nostra domanda che vi sto per rifare, ed è: come si chiama il film del 2005 del regista di The Idol, Ani Abu Assad, che vinse il Golden Globe come miglior film straniero? La risposta, il vostro nome e in quale città volete partecipare all'anteprima al nostro SMS 349-238-6666, sarete avvisati dalla nostra segreteria lunedì in giornata se siete fra i prescelti. E allora, le note della nostra sigla ci dicono che La Rosa Purpurea finisce qui, l'appuntamento fra 7 giorni, come sempre, con tutto il cinema che c'è.